Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Danilo Reggiani, luce italiana in tutto il mondo, di Alessandra Scaglioni. La Reggiani Illuminazione è un'azienda specializzata in prodotti ad alta tecnologia, presente in 90 paesi del mondo. La sua storia, che vi raccontiamo oggi, inizia nella seconda metà degli anni 50. A fondarla fu Goffredo Reggiani, padre dell'attuale presidente, Danilo Reggiani. La Reggiani è nata nel 57, fondata da mio padre e mia madre. Mio padre era un operaio, mia madre era un'impiegata. Un giorno mio padre tornò a casa e disse a mia madre: vieni che andiamo alla Fiera di Milano. Quando la Fiera di Milano di aprile era una fiera ancora importante, e fecero un giro nella fiera, e fecero questo per riuscire a capire che cosa doveva iniziare a fare. Dopo questo giro mio padre tornò a casa e insieme a mia madre decisero di produrre apparecchi di illuminazione, lampade, perché in fiera non avevano visto niente di particolare. E così nel 57 è nata la Reggiani Lampadari. Lui nasce da zero, inizia nel garage di un cugino che gli aveva dato a disposizione. Lui e mia madre incominciarono a disegnare e produrre e assemblare le lampade. Andavano in giro con la Vespa a ritirare i materiali e a consegnare le lampade ai clienti che aveva trovato. Partita solo da un'idea e diventata una piccola attività, l'azienda piano piano cresce. La produzione resta concentrata soprattutto su lampadari e lampade decorativi. Ma a un certo punto cambia tutto. E come spesso accade nelle aziende familiari, le motivazioni imprenditoriali si intrecciano con quelle familiari. Fino agli anni 70 l'azienda è cresciuta sempre di più, sempre dedicata al 100% erano prodotti decorativi. Negli anni 70 succede, c'è un primo step dove al ritorno da un viaggio dagli Stati Uniti mio padre portò una lampadina che in America veniva utilizzata per i proiettori. Era lampada di Croica che poi ha avuto un grandissimo sviluppo, e all'inizio degli anni 70 prese una grande decisione mio padre di fermare completamente tutte le produzioni delle lampade del decorativo e partire con un'azienda completamente nuova. Infatti prima era Reggiani Lampadari, poi è diventata Reggiani S.p.A. Illuminazione, che produce apparecchi tecnici. Questo qui è stato un grosso passaggio. Noi nel 1970 chiuse un'azienda e se ne aprì un'altra, quindi cambiando clienti, fornitori, e questo lo vedeva sulle prospettive e sul futuro, perché noi eravamo 5 figli, e lui contava molto su di noi per poter portare avanti l'azienda e voleva fare in modo di mettere a disposizione nostra un'azienda con lo spazio per tutti quanti. Cambiare tipologia di prodotto vuol dire che l'azienda riparte da zero. Cambiano i macchinari, i clienti, i mercati di riferimento e bisogna farlo in tempi brevi. In pochi mesi ha liberato completamente tutto lo stabilimento e l'ha impostato per le nuove produzioni dei prodotti tecnici. Io ricordo che è stato molto coraggioso. All'inizio aveva dei dubbi, ma con la carica che aveva dentro, che trasmetteva a tutti, era sicuro che avremmo raggiunto il nostro obiettivo. La nuova Reggiani punta molto sulla tecnologia e lo fa nel momento giusto. All'inizio degli anni 70 l'illuminazione tecnica, quantomeno in Italia e in Europa, non era molto sviluppata. Incominciò a fare una serie di fiere in giro in Italia e in Europa e incominciò subito a partire con delle produzioni interessanti. Una delle cose principali della Reggiani è lo sviluppo e la ricerca delle nuovissime tecnologie. Lo facevamo negli anni 70, lo facciamo oggi. Noi utilizziamo sempre le ultime soluzioni che offre il mercato a livello illuminotecnico. Lavorando molto sull'innovazione, crea anche brevetti creati da Fabio Reggiani, fratello di Danilo, che era responsabile dell'ufficio tecnico. ma ancora un cambiamento nella famiglia determina un cambiamento nell'azienda. Muore il padre e Danilo Reggiani prende in mano l'azienda. Purtroppo nel 2004 di colpo è mancato nostro padre e a quel punto i miei fratelli decisero di mettermi a capo di questo gruppo, perché già noi nel 2004 c'era la sede in Assovico, vicino a Monza, uno stabilimento a Londra, uno stabilimento negli Stati Uniti, uno stabilimento in Cina. Nel 2004 la prima cosa che io ho cercato di mettere a posto erano sistemare queste aziende, preparare, io dico sempre, le fondamenta, perché se vogliamo costruire un grattacielo dobbiamo avere delle fondamenta belle robuste. E mi sono dedicato all'ampliamento degli stabilimenti in Italia, in Inghilterra, in Cina. Il rafforzamento riguarda la presenza sui mercati internazionali e le sedi di produzione. A lavorare in questo senso arriva anche la terza generazione della famiglia. Nel 2004 c'è la partenza, diciamo, della terza generazione. Mio figlio si è trasferito negli Stati Uniti e ha cominciato a lavorare nello stabilimento americano, che ha portato l'azienda, un'azienda di 3 persone, nel giro di 7 anni a un'azienda di 30 persone. Ora è ritornato in Italia e lavora in sede. E quindi abbiamo lavorato per metterci in condizione di poter affrontare il mercato con numeri importanti, avere alle spalle delle strutture per riuscire a soddisfare le richieste di tutti i clienti. Sede centrale a Sovico, vicino a Monza, 250 dipendenti e 300 persone di indotto, 40 milioni di fatturato, di cui la metà proviene dai mercati interni e metà da quelli internazionali, la Reggiani è presente in 90 paesi del mondo. Allora, io dico, noi produciamo illuminazione tecnica. L'illuminazione tecnica c'è di tutto, no? Però andiamo a illuminare. Allora, partiamo dai faretti per le controsoffittature, la gran parte, per illuminare case, ma illuminiamo aeroporti, chiese, centri commerciali, negozi, il mondo del retail, quindi tutte le catene di negozi che ci sono, le più grosse catene italiane, abbiamo il piacere di dire che sono nostri clienti. E una delle particolarità di questi grandi clienti che noi abbiamo, che per il quale scelgono Reggiani, perché noi siamo presenti, sì, abbiamo detto, in Cina, in America, in Europa, in Italia, in Inghilterra, ma siamo presenti anche con distributori in 90 paesi del mondo, quindi riusciamo a dare un servizio al nostro cliente in qualsiasi paese del mondo, fornendo il prodotto adeguato alle normative di ogni paese. Non ultimo, stiamo aprendo e sarà aperto entro la fine dell'anno l'ufficio di rappresentanza a Mosca, perché la Russia è nato un altro dei paesi dove stiamo puntando molto. La presenza di insediamenti produttivi in altri paesi, come la Cina, partita diversi anni fa, si è sviluppata nel tempo sino a diventare una presenza importante. A livello di aziende, noi siamo andati circa 15 anni fa, siamo andati in Cina. Siamo partiti da un ufficio, oggi abbiamo una realtà di 130 persone, 25.000 metri di capannone, dove vengono prodotti tutti i componenti per le nostre produzioni, per il mercato cinese, per il mercato australiano, per coprire quella fetta di mondo. Ed è un'azienda, tra parentesi, che mio padre amava molto. Infatti negli ultimi anni ha vissuto quasi 3 anni continui sempre in Cina. E c'è un aneddoto che ogni tanto racconto. Siccome mio padre si trasferì per 3 anni in Cina, lui tutte le mattine faceva la strada dall'albergo all'azienda con il taxi. Sulla strada aveva visto in costruzione una chiesa. Un giorno, una mattina, si fermò, entrò nella chiesa e trovò il prete cinese. E cosa ha fatto? E mio padre mi disse, io non sapevo come riuscire a mettermi in contatto con questo prete, e cosa ha fatto? Incominciò a parlare in latino. Cominciò a parlare in latino col prete, il prete riuscirono a intendersi, e ancora oggi quella chiesa è illuminata con i nostri prodotti. Questo è un qualcosa che veramente io sono molto contento di raccontare, anche perché cerco di trasmettere, no, com'era mio padre, cosa faceva, e tutto quello che faceva lo faceva con una passione indescrivibile. E se è vero che negli ultimi anni la concorrenza anche di aziende internazionali è aumentata, anche in questo settore le caratteristiche dei prodotti italiani possono risultare vincenti in tutto il mondo, anche nei paesi a tecnologia più avanzata, come gli Stati Uniti. Perché, per esempio, gli Stati Uniti, sì, il mondo della luce negli Stati Uniti, ci sono grossissime aziende, ma io penso che, non dico solo la Reggiani, i produttori di apparecchi di missione italiani, noi siamo più avanzati rispetto alle aziende americane, e quindi non facciamo fatica quando noi ci presentiamo in America con i nostri prodotti, veniamo accettati immediatamente perché abbiamo puntato sulla qualità del prodotto, sulla qualità della luce, sulle garanzie, cosa che gli americani sono molto attenti. Con gli anni delle difficoltà economiche la crisi si sente, ma il fatturato tiene e i progetti non mancano. Stiamo mantenendo la posizione, anche, però, anche se la situazione non è che sia rosea, ma stiamo seminando tanto in questo momento. Diciamo, è una delle cose che quando il lavoro va giù non ci fermiamo, ma guardiamo in avanti. Stiamo facendo grossi investimenti in tutti gli stabilimenti che noi abbiamo, stiamo facendo investimenti per le comunicazioni, stiamo seminando, e sono sicuro e sono certo che i benefici arriveranno. Oggi Danilo Reggiani è presidente dell'azienda e la guida assieme al figlio. Io ho iniziato 17 anni e sono ancora oggi qui. C'era mio fratello, perché noi siamo 5 figli, 2 sorelle e 3 maschi. C'era Fabio, che si dedicava in modo particolare alla progettazione, che purtroppo è mancato nel 2009. L'altro mio fratello ha deciso di prendere strade diverse, e le 2 sorelle, anche loro, uno è medico e una è casalinga. Sono rimasto da solo in azienda. Fortuna vuole che ho un figlio che si chiama Matteo, che ha 30 anni, che ha iniziato nel 2004 partendo da zero, e oggi è responsabile di tutta la parte comunicazione e marketing del gruppo Reggiani. Quindi stiamo facendo un grande lavoro per portare l'azienda fuori dalle nostre mura, perché chi viene a trovarci nella nostra sede riesce a capire come noi lavoriamo, però c'è un po' difficile riuscire a trasmetterlo, e questo qui è uno dei grossi lavori che sta facendo Matteo per portare fuori la Reggiani, essere in modo che sia riconosciuta nel modo corretto. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.